Bona una nitesa sweet, bona una nitesa sweetie, bona una nitesa mama, my love. Hey, nime teleza nime fall in love, mandugu zako mite in love, nime funda nime break your love, sini aje chini usini aje solo. Ah, epoko nisha waga manyanga, wacha nikuite kinanda, penzi niwe bivu nisiwe changa, tende chini tende juu. Shit, we